Radio 24 presenta Destini incrociati. Destini incrociati. Un programma di Giacomo Zito. Columbia, Columbia, this is Houston, ALS, over. È il 20 luglio 1969. I rumori e le voci che sentite provengono dalla sala di controllo della NASA a Houston. Sono le 15:15 ora locale, le 22:15 ora italiana. Circa 400.000 persone sono coinvolte nella missione spaziale Apollo 11 che sta completando il suo obiettivo, portare un essere umano sulla superficie della Luna. È il punto di arrivo di un piano cominciato diversi anni prima e fortemente voluto dal presidente John Fitzgerald Kennedy. Un piano lanciato nel maggio del 1961, in un discorso che oggi risuona nelle orecchie di tutti i protagonisti che partecipano all'avventura. We choose to go to the moon. We choose to go to the moon. L'hanno chiamata la nuova frontiera. Uno slancio ideale verso nuovi obiettivi che riprende due delle caratteristiche del popolo americano che ne hanno fatto la storia. L'entusiasmo nell'affrontare i problemi e lo spirito pionieristico. Il progetto è costato molto, moltissimo, una cifra sconvolgente. Più di 25 miliardi di dollari di allora, oltre 120 miliardi di oggi. Ma il ritorno in termini di ottimismo, oltre che di risultati della ricerca da applicare nell'industria moderna, ripagherà ampiamente dello sforzo. Solo per far capire la portata di quella missione per il progresso dell'uomo, ecco un breve elenco di alcune delle ricadute innovative della ricerca spaziale che ritroviamo nella nostra quotidianità. Il Gore-Tex, delle tute degli astronauti, il velcro come sistema di chiusura degli indumenti, il rivestimento in teflon delle pentole, i microchip che hanno dato vita ai moderni computer, le celle a combustibile, i cibi liofilizzati che oggi troviamo in tutti i supermercati, studiati allora per rendere più pratica l'alimentazione in orbita, gli orologi al quarzo, le batterie ricaricabili, la tecnologia di comunicazione alla base dei moderni cellulari e in campo sanitario i pacemaker e i materiali per realizzare arti meccanici compatibili con i tessuti biologici. In pratica, per ogni dollaro investito di quei 120 miliardi, ne sono stati ricavati almeno 3 come ritorno di investimento. Lassù, nella navicella Columbia, in qualche modo si percepisce il momento storico. I destini di alcuni dei protagonisti di questo evento stanno per incrociarsi. Ma nessuno ha voglia di prevedere il proprio futuro. L'attenzione è tutta sul presente. Gli astronauti sono tutti concentrati sulle procedure e le operazioni di guida dell'astronave. Vediamo chi sono. La voce è quella di Edwin Buzz Aldrin, pilota dell'LEM, il Lunar Excursion Module. Classe 1930, pilota militare, pluridecorato nella guerra di Corea. Aldrin acquisisce un dottorato in astronautica al MIT di Boston ed entra alla NASA. Aldrin scampa un destino tragico quando viene scartato per la missione Gemini 9. I piloti prescelti, Sea e Bassett, periscono in un incidente di volo durante la fase di addestramento. Aldrin riprende parte della missione, ribattezzata 9A. Il successo dell'operazione gli permette di essere riconfermato per il primo viaggio che prevedeva un allunaggio con esseri umani a bordo, l'Apollo 11. Il secondo astronauta dell'Apollo 11 è Michael Collins, classe 1930. Nato a Roma, figlio di un addetto militare dell'ambasciata americana, è uno dei piloti più esperti. A lui l'incarico di guidare il CSM, modulo di comando e servizio, orbitante intorno alla Luna durante la discesa dell'LEM. Non è previsto, infatti, che Collins scenda sul suolo lunare. Il suo contributo sarà comunque determinante. Il terzo astronauta è il comandante Neil Armstrong, anche lui classe 1930. Come l'amico Aldrin, è uno scout. Anch'egli, soldato in Corea, si laurea in ingegneria aeronautica. Partecipa a diverse missioni e vanta una particolare capacità di pilotaggio. Viene nominato comandante del volo spaziale Apollo 11. È freddo, calmo, perfetto per essere a capo della missione. Tutto il mondo è in grado di ascoltare le voci di questi tre americani. Sono diventati familiari nei 4 giorni di viaggio che sono trascorsi da quando la missione è decollata da Cape Kennedy in Florida. Quasi 1 miliardo di telespettatori sta guardando le immagini, poche, e ascoltando le voci dei giornalisti, queste sì, molte, che commentano le conversazioni spaziali. In America l'incarico di comunicare al pubblico è stato affidato a Walter Cronkite. Lui ha seguito la crisi di Cuba, l'omicidio di JFK, la guerra del Vietnam. Cronkite chiude ogni suo commento con la stessa frase: That's the way it is. È diventato il commentatore più credibile in America. Un altro giornalista incaricato di seguire la missione e che da più di 10 anni aspetta questo momento come coronamento di una carriera è un cronista italiano, classe 1930, anche lui, come i 3 astronauti. Si chiama Tito Stagno, uno dei nostri protagonisti a Destini Incrociati. Unito a una grande passione, è il caso che segna il suo percorso professionale. E, ripeto, questo è stato, così come è stato un caso lo spazio. Io un giorno ero al giornale radio, ero andato a trovare il caporedattore Melandri, il papà della Melandri, Franco Melandri, e mentre uscivo dal giornale radio di Via Babuino, dove c'è l'hotel de Russie adesso, sentì le telescriventi, era 10 di sera, sentì le telescriventi che squillavano molto forte, come quando c'è una notizia urgente. Andai, strappai il dispaccio d'agenzia e c'era: l'Unione Sovietica ha mandato in orbita il primo satellite artificiale, si chiama Sputnik. Ecco, e nessuno sapeva nulla dei satelliti artificiali, fra quanti erano presenti. Io invece ho avuto proprio la... Ma che ti posso dire? Non mi ricordo, forse da un barbiere, non so dove, avevo letto una rivista dove c'era un articolo e quindi ho potuto dire 2 parole. Che cosa poteva significare mandare un oggetto in orbita? Ecco, forse il futuro dell'astronautica. Tito Stagno è un giornalista della RAI. Da più di 10 anni lavora per l'ente televisivo di Stato. Il suo ingresso nel mondo della comunicazione è avvenuto per caso. Allora a Cagliari viene segnalato da un funzionario al direttore di Radio Sardegna, alla ricerca disperata di un sostituto dello speaker che era irrimediabilmente a letto con la febbre. Tito è un giovane di bell'aspetto e parla un italiano corretto, pulito, di quell'inflessione sarda che allora era considerata non opportuna. Tito Stagno ha infatti trascorso tutta la sua infanzia a Pola, cittadina della penisola istriana, al seguito del padre, funzionario statale. Al termine della guerra, in un clima d'odio verso gli italiani, la famiglia di Stagno viene perseguitata dalle autorità slave e costretta a lasciare casa e scappare come migliaia di altre famiglie italiane. Scampato alle foibe con tutta la famiglia, Stagno è ora a Cagliari, la città natale dei genitori, e lavora giovanissimo alla radio come speaker. Radio Cagliari è una radio storica. Per prima ha dato la notizia della fine della guerra, 20 minuti prima della BBC. Ed oggi è un satellite della RAI e mantiene una certa autonomia. Quella sostituzione gli vale un contratto alla radio e successivamente, spinto dall'amico conoscente Gianni Attilini, partecipa a uno dei primi provini per entrare in RAI. Su 12.000 domande vengono selezionati tra gli altri Tito Stagno, Furio Colombo, Elio Sparano, Adriano De Zan, Umberto Eco. Tutti a lezione da Vittorio Veltroni. È il 1954. Intanto c'erano i maestri, cosa fondamentale. Noi avevamo i maestri. Vittorio Veltroni è stato un mio maestro. Aldo Assetta, critico cinematografico, uomo colto, che era andato in America, aveva imparato la televisione, come Franco Schepis, poi passato all'Iri. Insomma, tutti questi miei maestri mi hanno insegnato delle cose. Per Stagno, la seconda metà degli anni 50 è straordinaria. Un iter che lo porta dapprima a imparare un mestiere, poi a esercitarlo con passione. Sono gli anni in cui si impara un linguaggio, quello televisivo, e lo si mette in pratica in tempo reale. Per quanto riguarda la televisione, invece, lì sì siamo tutti pionieri, perché abbiamo inventato un modo di fare il telegiornale, di farlo con la pellicola e non col mezzo elettronico, con 2 tipi di pellicola, una pellicola in bianco e nero, una che si chiamava invertibile e che veniva solo, dava direttamente il positivo, veniva stampata in positivo, e poi c'era il negativo, che naturalmente richiedeva un tempo maggiore per essere pronto, e questo veniva prima sviluppato e poi stampato, la qualità era migliore e si usava per le inchieste, per i documentari. Stagno vive un intenso periodo di lavoro. Si occupa di cronaca, poi di politica. Apprezzato da Saragat, diventa inviato presidenziale. E poi, come abbiamo visto, arriva la benedizione spaziale. Stagno si appassiona subito della nuova frontiera. Sono già i primi anni 60. Segue le missioni Gemini e poi le Apollo. Nel 66 è negli Stati Uniti per un tour conoscitivo delle basi spaziali. Lì incontra un altro italiano a capo dell'organizzazione. Si chiama Rocco Petrone. Rocco Petrone è diventato, pensa, è figlio di un muratore della Basilicata, emigrato in America. E lui riesce, i sacrifici del padre, insomma, e la madre, poi il padre lavora alle ferrovie, fa insomma il manovale alle ferrovie, la moglie faceva la guantaia, mi sembra, cose del genere, in America. E lui è riuscito ad andare a scuola, poi addirittura è stato ammesso a West Point, all'Accademia di West Point, e poi di lì ha conosciuto von Braun, il quale se ne aveva capito che questo era uno in gamba. E quando Kennedy ha affidato a von Braun il progetto Apollo, eccetera, il Saturno, ha dato il benestare per il Saturno, ha messo quasi la condizione von Braun, che voleva Rocco Petrone, che era un uomo di 1,90, proprio con mascella quadrata. È praticamente lui che mi ha presentato gli astronauti, li ho conosciuti allora. Stagno è l'uomo dello spazio per la RAI. Stagno conosce gli astronauti grazie a Rocco Petrone, scienziato della NASA, che gli presenta Borman, l'astronauta dell'Apollo 8, il primo volo verso la Luna senza allunaggio. Il destino di Stagno è quindi quello di diventare l'uomo dello spazio. Borman se ne accorge e in quei giorni, complice la radio, che continua a suonare una canzone dei Beatles, gli affibbia un nomignolo, Mr. Moonlight, che lo accompagnerà per tutta la vita. A Destini Incrociati siamo a Houston, Texas, alla sala di controllo della missione spaziale Apollo 11. A migliaia di chilometri di distanza, Tito Stagno sta conducendo la diretta della missione, tenendo milioni di italiani incollati alla televisione. È un momento storico per il mondo, che sta assistendo alla celebrazione della fiducia dell'uomo, e per Stagno, per il quale la Luna è il punto più elevato di una carriera giornalistica sino ad allora esaltante. Torniamo alle fasi concitate dell'atterraggio dell'EM. Tra l'astronauta Buzz Aldrin, il pilota, e il suo comandante, Neil Armstrong, scoccano scintille. Scintillante perché intanto la navicella doveva manovrarla il pilota della navicella lunare, che era Aldrin, e invece d'autorità, quando si è trattato di farla scendere manualmente, ha preso i comandi Armstrong, che era il comandante della missione. Io credo che lì ci fosse anche il fatto che si fidavano molto a Houston di Armstrong. Armstrong fu scelto per la Luna perché durante un'esercitazione gli scoppiò il LEM, la navicella, e lui riuscì un secondo prima, proprio un attimo prima, ci sono le immagini molto belle anche, a farsi catapultare, e ma una prontezza incredibile. Pilotata dal comandante Armstrong, la navicella scende lentamente verso la superficie lunare. Dalle cuffie Stagno raccoglie le informazioni e le riporta ai suoi telespettatori. Metro dopo metro traduce le comunicazioni radio della NASA fino al momento cruciale. Tranquility Base here. The Eagle has landed. Roger, Tranquility, we copy you on the ground. You got a bunch of guys about to turn blue. We're breathing again. Thanks a lot. Ha toccato il suolo lunare. No, non ha toccato. Signori, sono le 22:17 in Italia, sono le 15:17 a Houston, sono le 14:17 a New York. Per la prima volta un veicolo pilotato dall'uomo ha toccato un altro corpo celeste. Questo è frutto dell'intelligenza, del lavoro, della preparazione scientifica, è frutto della fede dell'uomo. A voi Houston. Qui ci pare che manchino ancora 10 metri. C'è stato l'episodio di Orlando che, silenzioso fino a quel momento, ha detto no, non ha toccato, non è atterrato. E invece questo si spiega col fatto che Ruggero, che era uno straordinario commentatore, non era un telecronista, lui non teneva la cuffia, perché se teneva la cuffia non era capace di parlare. Quello era un lavoro o da traduttori simultanei, o da telecronisti. Quello del telecronista è ancora più difficile, perché il traduttore simultaneo non fa che ripetere quello che sente, vero? Traducendolo, ma ripeterlo testualmente. Io invece no, io devo raccontare sulla base di scarne notizie, ecco. Tutti ricordiamo quel momento, tutti abbiamo riso della tensione. D'altronde, lo stesso Cronkite, commentando l'evento per gli americani, non era riuscito a dire molto di più. Oh boy. Sei ore dopo, la storia si riprende la cronaca con le parole di Armstrong a un passo dal calpestare la superficie lunare. It's one small step for man, one giant leap for mankind. L'applauso liberatorio coglie gli studi televisivi, le case di milioni di persone e naturalmente la sala di controllo di Houston, in Texas. È la conferma che l'uomo ce la può fare se lo vuole. È il coronamento americano di un sogno. Nella sala di controllo Rocco Petrone è soddisfatto, il suo capo è soddisfatto. Anche lui, come Petrone, non è americano, bensì tedesco. Il suo nome è Wernher von Braun. Wernher von Braun. Una parte di quel successo a stelle e strisce è merito di uomini che vengono dal vecchio continente. A dimostrazione che la nazionalità non conta per vivere lo spirito di conquista. Il capo del programma spaziale americano, tanto voluto da John Fitzgerald Kennedy, Wernher von Braun, è riuscito a portare l'uomo sulla Luna. La sua vita e quella di un telecronista italiano, Tito Stagno, sono a un punto di svolta. Tito, soprannominato Mr. Moonlight. Von Braun, un supereroe, Mr. Rocketman. Destini incrociati. Quelli di oggi sono destini che si incrociano attorno a un evento che chi ha vissuto certamente ricorda, mentre chi non c'era lo ha potuto vivere grazie ai numerosi documenti d'epoca disponibili. È la missione spaziale Apollo 11, con Collins, Aldrin e Armstrong. Il LEM, il Lunar Excursion Module, ha appena toccato la Luna. Armstrong e Collins fanno la loro passeggiata nel mare della tranquillità. Un evento davanti agli occhi di centinaia di milioni di telespettatori in tutto il mondo, commentato da giornalisti, seguito da capi di Stato e religiosi. In Italia, Tito Stagno, completo beige, cravatta a disegni, occhiali quadrati, è a suo agio, come un pesce nell'acqua. È preparato, Tito. Aspetta questo momento da 10 anni. La telecronaca della Luna fu una telecronaca facile, perché per me almeno, perché andò tutto, intanto ci avevo... ero esercitatissimo, dai voli sovietici al primo volo orbitale di Glenn, poi tutto il progetto Gemini, poi i primi voli Apollo mentre continuavano le Soyuz e via dicendo. Quindi sono arrivato preparatissimo, poi ho fatto il viaggio di studio in America, tutte le basi e i centri spaziali, 12 stati con le industrie che collaboravano allo sforzo voluto da John Kennedy nel segno della nuova frontiera. Quindi io sono arrivato preparatissimo e il piano di volo di Apollo 11 è stato rispettato, cioè tutto è andato secondo le previsioni. Tutto secondo le previsioni, dunque. Merito di un uomo e della sua capacità di progettare, della sua managerialità, che lo ha portato a costruire un gruppo straordinario, della sua tenacia e della sua passione per la missilistica. Nata 40 anni prima, in Germania. Sono convinto che in ambito spaziale i russi siano davanti a noi, particolarmente nel decollo dei mezzi. In questo momento stiamo avanzando alla stessa velocità. Solo il tempo ci farà capire se saremo in grado di colmare questo divario. È la voce di Wernher von Braun. In America, alla fine degli anni 50, Wernher è già a capo del programma spaziale americano e si sta misurando con la grande corsa che vede le due superpotenze contrapposte anche nella conquista dello spazio. Ma chi è Wernher von Braun? Wernher Magnus Maximilian Freiherr nasce a Wistitz, in Prussia, il 23 marzo del 1912. Inizia sin da bambino a interessarsi allo spazio, quando la madre gli regala un telescopio. La sua passione diventa subito irrefrenabile. Ragazzino, viene fermato dalla polizia a Berlino mentre faceva viaggiare un carretto giocattolo con la spinta propulsiva di alcuni fuochi d'artificio. La passione diventa lavoro sotto l'esercito. Negli anni 30 riesce ad avere un incarico di ricerca e durante la guerra, cedendo alle pressioni del regime, si iscrive al partito e diventa ufficiale delle SS. Non senza polemiche, riesce ad ottenere fondi per lo sviluppo dell'armamentario spaziale. Il regime è in crisi. Ci vuole qualcosa che ribalti le sorti della guerra. Von Braun sviluppa il progetto V2. È a questo punto che Wernher, durante la disfatta del Terzo Reich, riesce a sottrarsi all'eliminazione di tutti gli scienziati da parte delle SS e si consegna agli americani. Questi sono felicissimi di accoglierlo per continuare gli studi e le ricerche missilistiche. Gather round while I sing you of Wernher von Braun, a man whose allegiance is ruled by expedience. Call him a Nazi, he won't even frown. A Nazi schmazi, says Wernher von Braun. Quella che sentite è una canzone di Tom Lehrer, musicista ironico e graffiante, intitolata Von Braun. Gli ebrei americani non apprezzano il passato nazista di Von Braun e men che meno l'accoglienza delle autorità americane. Von Braun imperterrito si mette sotto a lavorare, per la verità senza grandi risultati, ancora non ha i mezzi. Questo periodo gli servirà tuttavia per rodare un gruppo di lavoro affiatato. L'occasione arriva nel 1957. Gli americani, presi alla sprovvista dal lancio della missione Sputnik, vogliono correre ai ripari. Anticipano perciò il volo del Vanguard, un razzo sviluppato dalla Marina Militare. Il lancio è un fallimento. Il razzo esplode senza nemmeno decollare. È arrivato il momento per Von Braun di dimostrare quello che sa fare. L'incarico viene sottoscritto nel 1958. In quell'anno nasce la NASA. Von Braun ne diventa il direttore e lo sarà fino al 1970. Kennedy aveva visto giusto, come commenta Tito Stagno. E poi evidentemente si fidava anche di uomini come Von Braun e più tardi come Rocco Petrone. Il problema erano i soldi, perché 25 miliardi di dollari non erano una lira, insomma, allora. Di azzardo, no, era una gara, ma l'azzardo c'è stato anche quando coi missili a Cuba, insomma, quando hanno bloccato le navi sovietiche che portavano i missili a Cuba. L'azzardo c'è stato, il presidente era un uomo di coraggio e quindi ha detto questa gara dobbiamo vincerla, e senza la guerra fredda non si sarebbe andati sulla Luna, perché chi avrebbe speso cifre folli e azzardato solo a pensare a fare un viaggio di 800.000 chilometri andata e ritorno e di mettere piede sul nostro, il viaggio più lungo mai fatto dall'uomo, e di mettere piede su un altro corpo celeste. Lo sviluppo della collaborazione tra russi e americani su temi spaziali segna un passo avanti nelle relazioni tra Stati Uniti e Unione Sovietica, ma anche un cambio radicale nella strategia spaziale, che causa la fine del programma Apollo in favore di altri progetti. Frank Borman, dopo il volo dell'Apollo 8, era andato in Unione Sovietica, a quella che allora si chiama Baikonur, ma non so se si chiamasse già la città delle stelle, come si chiama oggi. Andò in Unione Sovietica già per preparare con gli scienziati sovietici il volo congiunto Apollo-Soyuz, che sarebbe avvenuto niente poco di meno che nel 75, luglio 75. Comunque lui era un po' l'ambasciatore della NASA. Forse quella notte i pensieri di Von Braun sono rivolti al futuro della missione Apollo. Forse sono tesi sul risultato e sulle voci provenienti dalla Luna. Anche Tito è teso al buon risultato della sua diretta. In quello studio televisivo, Tito Stagno vuole che tutto sia a posto, perfetto, senza sbavature. Ma anche per lui i tempi stanno cambiando. La RAI è in procinto di avviare radicali cambiamenti. Tito non ci vuole pensare. Non ora. 1-2 pollici affondato nella superficie lunare il piede di Neil Armstrong, assaggiato con il piede sinistro il suolo della Luna. It is very fine, l'appoggio è buono. Non è il momento di pensare adesso al futuro. È una notte d'amore, quella di Von Braun e la sua missione, quella di Tito Stagno e la sua diretta che celebra 20 anni di giovanissima carriera. Ce ne saranno molti altri davanti e Tito sarà presente ad ogni appuntamento importante. Ma tutto profuma di fine estate quella notte, anche se è solo il 20 luglio del 1969. Al ritorno dalla missione, Buzz Aldrin avrà per il gran capo della missione parole commoventi. Il dottor Braun fu una fonte di ispirazione per tutti noi. Attraverso le persone che ha incontrato e con le quali ha lavorato, è riuscito a creare il team giusto per la missione Saturn, che ha motorizzato l'impresa di Apollo 11. Buzz Aldrin ha colto l'essenza del progetto Apollo Senza von Braun, nessuno dei grandi risultati che la NASA ha ottenuto sarebbe stato possibile. Ma come spesso accade, un grande traguardo diventa anche un grande punto di svolta. La NASA, come abbiamo accennato, ha altri obiettivi in mente e von Braun non è d'accordo. Lui vorrebbe puntare a nuove conquiste capaci di esaltare il mondo. La NASA sta invece meditando di costruire le sue prime stazioni spaziali con uomini a bordo in un programma di collaborazione con i russi. Von Braun è abituato a conquistare ciò in cui crede e inizia a combattere la sua personale battaglia. A quelle persone che credono che noi disperdiamo risorse economiche, noi rispondiamo che invece creiamo un grande valore che andrà a costituire la nostra ricchezza del futuro. Braun risponde a tutti coloro che lo accusano di spendere i fondi pubblici inutilmente e rilancia con un programma spaziale ancora più ambizioso, capace di mantenere il sogno ancora vivo e accendere gli animi degli americani verso nuovi traguardi. I miei amici danzavano nelle strade quando il primo satellite orbitava attorno alla Terra. Danzavano allo stesso modo quando il primo americano mise piede sulla Luna. Vi chiedo di non far cessare questa danza. È il nostro sogno. Von Braun ha un'idea, la NASA ne ha un'altra. Ma c'è da festeggiare adesso, l'uomo è andato sulla Luna. Per von Braun si apre una stagione di celebrazioni. E lo stesso vale per Tito Stagno, che in Italia diventa molto popolare. La gente lo ferma per strada, entusiasta. Ma Tito resta un giornalista nel profondo. Per lui niente può cambiare, anche se di lì a pochi anni anche la RAI cambierà faccia. E poi Tito è al TG adesso e ha un ospite speciale nell'edizione di fine estate. Un'edizione dedicata allo spazio con un ospite che arriva apposta per lui. Si chiama Werner von Braun. Tito Stagno lo porta al TG, lo intervista in uno speciale. Werner gli confida un'idea ancora più pazza. Vuole portare l'uomo su Marte. Destini incrociati. A destini incrociati è il 20 luglio del 1969. Mentre Neil Armstrong e Buzz Aldrin fanno quattro passi sulla Luna ed entrano nel mito, a 800.000 km di distanza, Werner von Braun, l'inventore della moderna tecnologia missilistica, e Tito Stagno, pioniere del giornalismo televisivo, vivono il loro sogno da protagonisti. Ma tutto sta per cambiare attorno a loro. Tito e Werner sanno che niente dura in eterno. Loro che hanno cavalcato i cambiamenti per tutta la loro vita vivono il domani con la curiosità del pioniere, dell'esploratore. Il destino li farà incontrare una sera d'estate del 1971 a Roma. Ah, io con von Braun c'ho ancora il telegiornale del, se non sbaglio, del 29 agosto 71. Ho ancora il sommario e c'è la firma di von Braun, perché von Braun partecipò a quel telegiornale. Io andai a prelevarlo con una macchina per allora lussuosissima, una 130 Fiat, con l'aria condizionata, che sembrava una cosa di là da venire. Viene in Rai, c'è subito un piccolo ricevimento e lui mangia e beve come se non mangiasse, non avesse mangiato e bevuto da una settimana. Poi fa il telegiornale con me. Gli mostriamo dei filmati che certo lui conosceva, però non poteva immaginare come noi l'avevamo montato, in quale sequenza era stato, e lui prendeva i sincroni in un modo formidabile. Cioè, era anche uomo di spettacolo, non soltanto un grande scienziato. Von Braun è uno scienziato e anche un grande comunicatore. Ma quel passaggio romano gli serve a riprendere confidenza con la realtà delle cose, con la semplicità della vita. Con tutto il fascino che una sera d'estate romana può esercitare su un tedesco naturalizzato americano in visita di piacere. Cosa c'è di meglio di una sera in compagnia di un simpatico giornalista italiano che conosce ogni minimo dettaglio della sua vita professionale? Anche per Tito è una serata particolare. Una cena con l'inventore del razzo Saturno V. Tito si sente in cima al paradiso. Andiamo a cena. E andiamo a cena a Trastevere da Ciceruacchio, in questo locale incredibile, dove c'era un casotto, chiasso, con parolacce, musiche e via dicendo. Si mangiava, devo dire, malissimo. Comunque, il dottor von Braun si mise dei guanti di plastica e mangiò gli scampi al carbone. E mentre mangiava questi, sulla piazzetta dei ragazzini facevano scoppiare dei barattoli col carburo. E lui diceva: bravi, bravi, che il principio è giusto. Von Braun, in quella piazzetta a Trastevere, deve essersi ricordato dei pomeriggi berlinesi quando ragazzino faceva correre un carretto coi fuochi d'artificio. In fondo, la sua carriera è iniziata così, come un gioco. E per gioco è iniziata la carriera di Tito Stagno, a Radio Cagliari, una ventina di anni prima. Le parole scivolano come i bicchieri di vino quella sera al ristorante. Ma fece un po' capire che un giorno diranno che tutto questo è falso. L'immagine che vale più delle cose che si fanno, insomma, apparire è più importante che essere, che fare, ecco. Sì, questo è una cosa che ricordo. Qualcuno, in effetti, metterà in dubbio la verità della missione sulla Luna, come se il programma spaziale, gli astronauti, i 120 miliardi di dollari fossero stati tutti elementi di una produzione hollywoodiana. La pista del complotto, del disegno segreto, dei piani di contrapposizione tra i due blocchi è sempre molto amata dai dietrologi. Ma von Braun ha già voltato pagina. Von Braun se ne va dalla NASA nel maggio del 1972. I progetti dell'agenzia riguardo alle future missioni spaziali non incontrano il suo favore e anche alla NASA sembrano essersi stancati di lui. Nel 72 diviene vicepresidente della Fairchild Aircraft nel Maryland. Nel 1973 scopre di avere un cancro al rene, che tuttavia riesce a tenere a bada fino al 77. Nel 74 conosce Carol Rosin, responsabile delle industrie Fairchild. Von Braun la rende consapevole del pericolo della proliferazione delle armi spaziali e del perché devono essere bandite. La Rosin continua l'azione di von Braun nella promozione del divieto delle armi spaziali e nella trasformazione del complesso industriale militare in un'industria pacifica di esplorazione dello spazio, cofondando l'Institute for Cooperation in Space. Nel 75 von Braun ne diviene presidente. Il 31 dicembre del 76 rassegna le dimissioni dalla Fairchild per il peggioramento delle sue condizioni di salute. Muore il 16 giugno del 77 ad Alexandria, in Virginia. Tito Stagno, da grande giornalista qual è, affronta gli anni 70 armato solamente della propria professionalità, quando oramai è evidente che per andare avanti occorre la tessera di un partito. Quando c'è stata la riforma della RAI, che nel 76, che poi è significata una spartizione brutale dei posti, io avrei dovuto dirigere una testata, ma non ero poi non avevo un partito alle spalle, quindi non diressi un bel tubo. Però chiesi che mi dessero lo sport e io intanto mi feci una redazione mia, scelsi io i ragazzi. Il discorso che ho fatto loro è questo: guardate, io arrivo qui dopo aver fatto tutto, politica estera, politica interna, cronaca, scienza, telecronache dirette, inviato speciale, eccetera, eccetera. Arrivo qui alla fine allo sport, cioè voglio portare nello sport tutte le mie esperienze di altri settori. Quindi il giornalista sportivo di sicuro deve essere di primissima categoria, di primissima categoria. E non a caso poi ho preso Gianni Brera, ho fatto, cioè, il numero uno del giornalismo italiano, un uomo che ha inventato una lingua sulla quale studenti hanno fatto la tesi di laurea. E io l'ho preso. Mi ricordo quando gli feci firmare il contratto, lui mi invitò a cena e mi versava continuamente da bere. E poi pensava, ma me l'ha detto dopo, adesso casca. E invece io non cascai, però poi appena uscito e salito sulla macchina vomitai l'anima. Tito Stagno non è mai cascato. Da quella notte della Luna, la sua carriera è stata costellata di successi e di nuove esperienze. Dalla domenica sportiva lancia Simona Ventura e lascia la RAI nel 94 dopo 40 anni di carriera alla massima velocità. Tito oggi è un uomo di comunicazione, un insegnante che mette a disposizione la propria esperienza per i più giovani. È sempre in viaggio alla ricerca di qualcosa da raccontare. Qualche mese fa, insieme a Sergio Benoni, specialista di comunicazione, ha pubblicato per Minimum Fax il libro Mr. Moonlight, nel quale sono contenuti innumerevoli risvolti di una carriera straordinaria. Destini incrociati. Testi di Morena Rossi e Simone Spoladori. Redazione Chiara Santilli e Isabella Marini.